tradisco il conte, aver che fare con una donna strana. Mia vezzosa Diana, perdonate, sia voi solo importuno, ha sempre il cor gentile una donna che è bella. Bella o brutta, io non sono per voi. Se io morissi però, non piangerei. Dunque vado a morire. Buon viaggio a lei. Dite ciò che volete, questo vostro disprezzo sempre più mi innamora e cresce il fuoco. Mi pare che a poco cominciate a piacermi. Voglio farlo impazzire. Dite davvero, o mi burlate? Cara, che contento, io più non sono in me. Corpo di Giove, costei me balsamato, mi par d'essere un altro. Ora ben sapete, io famerò, ma voglio che mi veniate avanti con un'aria smorfiosa, passionosa. La mano dritta al petto, strisciando il piede al naso forastiero. Su via, da prova, a voi presentatevi. Fatemi degli inchini, dritto, brillante, snello. Tutto mi induce a far quel viso bello,